468. Triglie col prosciutto. Non è sempre vero il proverbio muto come un pesce, perché la triglia, l'ombrina e qualche altro emettono suoni speciali che derivano dalle oscillazioni di appositi muscoli rafforzate da quelle dell'aria contenuta nella vescica natatoria. Le triglie più grosse e saporose sono quelle di scoglio, ma per cucinarle in questa maniera possono servire triglie di mezzana grandezza che, nella regione adriatica, chiamansi rossioli o barboni. Dopo averle nettate e lavate, asciugatele bene con un canovaccio e poi ponetele in una scodella da tavola e conditele con sale, pepe, olio e agro di limone. Lasciatele così per qualche ora e quando sarete per cuocerle, tagliate tante fettine sottili di prosciutto grasso e magro, larghe come le triglie e in quantità uguale al numero di esse. Prendete un vassoio o un tegame di metallo, spargete il fondo al medesimo qualche foglia di salvia intera, involtate bene le triglie nel pangrattato e disponetele in questa guisa. Addossatele insieme ritte e frapponete le fettine di prosciutto fra l'una e l'altra, spargendovi sopra altre foglie di salvia. Per ultimo versate sopra le medesime il condimento rimasto e cuocetele fra due fuochi. Se volete che questo piatto riesca più signorile, levate la spina alle triglie da crude, aprendole dalla parte davanti, richiudendole poscia.